siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Papà, l'arancia la mattina è oro, il pomeriggio argento, la sera è piombo. Ma perché, povero arancio, perché la sera fa così male? Avevano fermato un cieco a Bari Vecchia in motocicletta che guidava e gli avevano sequestrato tutta la pensione pensando che fosse un falso invalido. Riuscito a dimostrare di essere veramente completamente cieco. Sto facendo il giro per le librerie chiuse ancora, capisco perché ancora perdono così tanto tempo visto che esce il mio libro. Ma è vergognoso, forse è un complotto contro il tuo libro. Il nostro grande Matteo è capacissimo di dire che fa una cosa, poi ti dice: io voglio allearmi con te, pausa, brutto stronzo. E allora a quel punto capisci che io voglio proprio allearmi con te, antipatico che non sia. Insomma, questa bisogna... finisce subito nel fritto misto. Prettamente parlamentare come la legge elettorale, che riguarda le regole di tutti, è un atto che io considero molto grave in sé perché costituisce un precedente inquietante. Ho 61 anni. Secondo Oscar Giannino, che stimo, no, vabbè. Quando dovrei andare in pensione? Ragazzi, se volete fare di questo una specie di idropolemico, io capisco, ma stiamo andando un po' oltre l'impostazione di questa trasmissione, no? Ma perché devi essere polemico? Ma perché rifiuto l'idea di fare di una trasmissione un foro polemico? Parli pure, il politico parla, non c'è problema. Formazione. Parliamo tutti, naturalmente. Non c'è dubbio. Ma io volevo soltanto... Però lei mi ha chiesto un dato e glielo ho dato. Cluedo dello stupro, adesso poi questo guittare a 16 anni con un regista, sì. Partire con fare il Cluedo, ah è lui, no non è lui, cioè questo comincia a trovarlo mettere fango nel ventilatore. E allora buongiorno popolo dei Giasvegli, buongiorno, inizia una grande giornata, io sono qui con il comandante Alberto Castelvecchi. Buongiorno. E come sapete, editore, professore, intellettuale, uomo di cultura, ma anche di mondo e di spirito, vero? Eh sì, il mondo e lo spirito non ce lo facciamo mancare mai. Allora, oggi una giornata di battaglia, di guerra, di nuovo. Sembra gli argini crollino, allora noi torniamo ai Led Zeppelin per raccontarvi le ultime novità sulle polemiche che riguardano la Banca d'Italia, che non è solo un tema istituzionale, è diventato un tema di confronto, di una fotografia dello stato dei partiti politici alla vigilia del voto. E poi ovviamente ancora le polemiche sul caso Weinstein, in cui ormai è difficile capire dove si arriverà, fino a che punto si arriverà, e poi l'incredibile notizia dell'iscrizione dell'Appendino nel registro degli indagati per un presunto falso in bilancio. Allora, fritto misto. C'era l'idea che Berlusconi stia per tornare al potere. Questo devo dire anche per il numero di signorine che solo in quell'occasione sono arrivate. Ma guarda il PD, no, giornalisticamente parlando, no, giornalisticamente nei momenti di apice di Berlusconi c'erano molte belle donne nelle platee. Sono loro che sono carine, vengono attratte da Berlusconi, che è una persona charmante. Quando non c'è Berlusconi non si vedono. Oh, ma da Mussi non sono attratte. Ma Franco Bechis e Alessandra Mussolini duettano ancora sulle ragazze. Le ragazze del Cavaliere, e ovviamente erano all'aria che tira. Ma sentite Nicola Porro che torna su un tema che ci ha appassionato: Che Guevara, il suo incubo. Questo mi ha rotto le palle per tutta la mia infanzia. Potevo stare con una donna di sinistra, mi è successo, ma se entravo nella sua stanza, cioè Che Guevara nella sua stanza, io uscivo, poteva essere la donna più bella del mondo. E beh, abbandonare la donna più bella del mondo per un poster di Che Guevara è come minimo un crimine, no? Eh sì, però è un mito questo del grande uomo peloso col basco che ha accompagnato le nostre infanzie, le nostre adolescenze, gruppettare più o meno per anni. C'è grande polemica sul Che, eppure è un personaggio vivo, forse reso immortale dal suo gesto di rinuncia, da quella foto di Alberto Corda. no? Sì. Che lo ha trasformato in un'icona. Io ho nel mio studio a casa, dopo aver fatto un viaggio a Cuba, una foto in cui Che Guevara, Fidel Castro e un altro generale rivoluzionario giocano a golf per prendere in giro i borghesi, vestiti in tuta mimetica con gli anfibi. Ah, sì, questi, no, gesti. Anche quella di corda, credo. Sì. E allora Bersani a carta bianca ha fatto un po' uno show ieri, sentite, è tornato di nuovo importante perché Renzi dice MDP deve scegliere se stare con me o con Fratoianni. Nessun risentimento, nessun rancore. Siamo intenzionati a discutere col PD. Ma poi, per amor di Dio, non sentirete aprire una parola contro un'idea di centrosinistra. Non sentirete una parola contro un'idea di centrosinistra. Si può discutere prima delle elezioni solo se c'è una legge elettorale che ci consenta di raffigurare un confronto vero. E quindi mette l'asticella, mollate il Rosatellum e forse possiamo allearci. Però poi sentiremo che sul treno, ieri partiva il treno, Renzi ha detto esattamente il contrario: con questa legge posso vincere. Ma attenzione, per noi diciamo non magrissimi, Salvini si mette a dieta. Diciamo che sono 90 kg, essendo 1,80, colesterolo e trigliceridi sono sotto controllo, però se perdo 4-5 kg non è un problema. Diamo l'annuncio, Salvini a dieta, parte il lancio da Gipsy. Non sono mai andato in palestra, non ho mai fatto una lampada, non mi sono mai messo a dieta. Vedrò di curare un attimo l'alimentazione, sapete qual è il problema? Se ovunque vada, fortunatamente mi invitano a visitare territori, aziende agricole e mi offrono i prodotti del loro territorio, quindi oggi essendo a Catania dovrò stare attento. Galeotta fu l'azienda agricola, eh? Anche a te succede, Alberto? No, io veramente faccio CrossFit, sono alto 1,76. Che cos'è il CrossFit? È il CrossFit, è una tecnica di allenamento che consente, senza alzare grandi pesi, di riprodurre i movimenti dei lavori antichi, di allenare il metabolismo, eccetera. Lo consiglio a Salvini. Oh Madonna, sono perché c'è questo tema dei candidati che devono essere fit oggi, no? Nel senso che la nostra è una nazione che si sta orientando verso il benessere, quindi in qualche modo tu pensa al fighetto Luigi Di Maio, perfettamente in forma, vagamente lampadato o comunque perfettamente sbarbato, e Salvini invece che è un po' deborda, quindi è normale che voglia perdere 5 kg prima della campagna. La satira di Gene Gnocchi su Dibba che sbaglia le piazze. A Di martedì. Di Battista sbaglia sempre le piazze, no? Gira con questo megafono, no? Appena vede un assembramento lui gli si fionda dentro, la gente lo vede e dice: hai un megafono in tasca o sei contento di vederci? E allora lui cosa fa? Tira fuori il suo megafono così e comincia a darli in gara. Ti faccio vedere, ieri mattina era al supermercato, ha visto una coda alla cassa, ha cominciato: cittadini, solo Mussolini e De Gasperi hanno osato chiedere il 3x2 sul coccolino, bene, bene, bene. Potente, ma Fico su Di Maio. Adesso è politica seria. No, non comanda nessuno questo. Come Luigi non comanda è nessuno? Un portavoce, Presidente del Consiglio, come io sono un portavoce, e facciamo delle riunioni anche enormi, bellissime, sul programma, sul come andare avanti. Di Maio lo sa questo. Certo, le facciamo insieme. Lei gli ha chiesto quali sono le sue funzioni in questo momento e Luigi le ha risposto: io condivido quelle funzioni. Uno stop alla leadership oppure un modo per marcare il territorio? Però è molto interessante. Ma è partito il treno di Matteo Renzi, 300.000 euro da stazione Tiburtina, il grande investimento mediatico del leader del PD. Ettore Rosato. È un treno fatto per far vedere anche che siamo nei punti più lontani del nostro paese, quelli che spesso non vengono mai citati, fatti che vengono dimenticati e che invece rappresentano la vera normalità della gente che vive nel nostro paese. E Bersani di nuovo a carta bianca, usa un po' di bersanese: vedo gente nel bosco. Quando dico in battuta, la gente che è andata nel bosco non è la peggiore, eh? Io tendo a pensare che sia la migliore. Sto parlando di lavoratori, sto parlando di giovani. Quella che vuole recuperare. Quella è quella che se n'è andata. E questo mi spiace, questo è il problema. Non è che ce l'ho con Renzi o Gogò. Se la gestione di Renzi non avesse portato a quell'esito, ma io sarei un renziano. E poi è arrivato il grande scoop di Carta Bianca, perché Asia Argento, dopo un lungo silenzio con la preparazione drammaturgica della grande diva, ha raccontato la sua verità sulle molestie, sul produttore americano che fa tremare Hollywood, e ha spiegato: era impossibile dire di no. Quando dicono potevi dire di no, voglio vederti a te dire di no con un uomo alto 2 metri, con una pancia così, una faccia così, con una voce che parla così. Era impossibile, io non potevo dire di no, per me è stata una violenza vera. Allora, qualcuno ci ha scritto sulla pagina Facebook, perché siamo un programma che pensa, cogita, dibatte, ci ha scritto: beh, però mi sembra di essere al mercato, come mai parlate di questa vicenda? Come mai parliamo di questa vicenda? Ma questa è una vicenda che attraversa gli stati, la cultura, la concezione dell'uomo e della donna, e che forse cambierà il nostro modo di intendere i rapporti e le relazioni. Quindi non è un fattarello di cui si discute al mercato, anche se capisco che qualcuno può avere questa impressione, è una vicenda molto importante. E non solo, ma sta scuotendo anche il mondo politico americano, perché non dimentichiamo che Weinstein, questo signore, vede oggi una trattativa importante in cui un amico personale di Donald Trump, Tom Barrack, il miliardario sorridente americano, e Tarak Ben Ammar, noto alle nostre cronache come impresario dei media, amicissimo di Berlusconi, vogliono entrare nella sua azienda. E come è noto, insomma, anche Donald Trump è stato in passato accusato di molestie alle donne. Siamo una concezione maschilista del mondo che sembra coniugare gli affari, il potere e la libertà di mettere le mani addosso alle donne. E credo, come hai detto tu giustamente, che questo cambierà il nostro modo di vedere la cosa. Perché noi lo conosciamo, è il solito gioco del grande avvocato che fa il furbo con la giovane praticante, del grande primario di ospedale che usa il suo potere verso la giovane dottoressa, del professore universitario che sta con la sua assistente. Insomma, è la storia del potere maschile che abbina la capacità di dare lavoro e la possibilità di usufruire di altri favori. E quindi... Però l'altra voce oggi che colpisce è quella dello sceneggiatore, diciamo, di fiducia della casa, che dice: dove eravate, sapevano tutti. Questa è l'altra cosa che colpisce il muro di Insomma, Luca, molto spesso si dice nel mondo del cinema, si dice nel mondo del cinema spesso si dice devi darla per poter lavorare, ecco, diciamolo in maniera così rozza, no? E queste sono verità che certe volte si sussurrano. La stessa Asia Argento in qualche modo dice di essere stata molestata più volte da questo Weinstein, quindi in qualche modo non è un singolo episodio. E poi vengono fuori i nomi di tutte le altre che dicono sì, è vero. È una storia appunto di rapporto del potere maschile con la potenza della seduzione femminile, che certe volte si trova in difesa e certe volte usa il gioco per fare carriera, diciamolo anche sinceramente. Quindi credo che è il nostro modo di vedere questo rapporto di potere che deve cambiare. Pensa che su Libero c'è un pezzo di Cruciani che dice: Vizietto e le signore molestati 4 milioni di uomini. Esiste anche il contrario? Ma insomma, Cruciani ama essere, come si dice in pubblicità, disruptive, cioè ama sempre prendere contropelo le notizie. Io credo, come credo che lo pensi la maggior parte di italiani, che le donne siano parte debole in questa cosa qui. È vero che spesso le donne usano il loro potere di seduzione, questo è vero. Però di fatto, se la controparte è che io ti faccio emergere come attrice solo se tu me la dai, insomma, chi è la parte debole? Non c'è dubbio. 349-238-6666 per intervenire. Ci sentiamo dopo l'estate in diretta con i Già Svegli. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. Già Svegli. Mi sveglio ogni mattina all'alba, da sempre, o all'aurora, no, all'aurora, perché l'aurora viene prima dell'alba, prima che sorge il sole, quindi vedi, nel mio nome c'era un destino, quindi all'aurora ci si sveglia. Buongiorno signor Terese, ieri sentivo parlare dei POS per tutti i commercianti. Fino a 2 giorni fa si parlava di lavoro nero, prostituzione, droga, traffico di sigarette. Per questi qua, quando si trova la soluzione per farlo emergere? Io come commerciante qualcosa lo Stato do, non dico che chissà che do, però chi non dà nulla non si trova mai la soluzione, si parla solo. Sono stufa di sentire queste storie di queste donne che sono state 20 anni fa stuprate e sono state costrette a dare i loro favori sessuali, e sempre purtroppo mi trovo a dividere il mondo tra la gente normale e questi cosiddetti VIP, eccetera. Mio figlio Marco alle 5:30 doveva partire per un viaggio lungo di lavoro, e io gli ho detto: che bello, così scopri quanto è bravo Telese alle 6:30. Lei che cosa mi fa, Telese? Gli rifila l'Aurora Lussana, per cui lui, incavolato nero già per le code che c'erano in autostrada, ha cambiato canale. Sì, ciao Luca, complimenti, sei un bravissimo giornalista, anche se sei un po' piatto, comunque stavo scherzando. Allora, cosa ti ha colpito di questa grande, come dire, questo grande affresco sonoro sulla mattina, sui risvegli? Ma io penso che tu sia diventato la voce che... io ho un punto di debolezza. Radio 24 è la radio che ascolto da quando ci sei tu la mattina presto. Siccome sono mattiniero, mi sveglio più volentieri. E in effetti il mondo è un po' diviso tra chi si sveglia la mattina presto e fa le sue meditazioni. Si apre uno spazio di... come dire, hai una mente diversa la mattina presto. Lo so che tu magari ti svegli poco volentieri, ma in noi mattinamboli, non nottamboli, benvenuto tra noi, Luca, sei diventato la voce che fa svegliare l'Italia. Assumitene le responsabilità. Ma io ti chiedevo su quelle voci, su quel tipo di racconto. È bello la madre che suggerisce al figlio di sentire la radio la mattina. E dice: questo mi rifila Aurora. Capita Aurora, un giorno capita Aurora, un giorno che è una grande rotazione. Ma voi come Radio 24 avete questa cosa, più i vostri ascoltatori vi maltrattano, più dimostrano affetto, no? Questo lo dice anche Barisoni il pomeriggio, cioè, perché Barisoni dice: voi vi incazzate ma continuate ad ascoltarci. La stessa cosa dice Cruciani, e quindi Luca, beccati la tua dose di incazzatura anche tu, perché è evidente che funzioni. Allora, ci fermiamo fra poco, ma abbiamo ancora tante cose da dire. Ti volevo chiedere di questa vicenda, se secondo te l'inchiesta dell'Appendino oggi per una vicenda di falso in bilancio peserà sull'immagine dei 5 Stelle. Ma dunque, per il momento non hanno pesato i disastri della Raggi e non hanno pesato neanche le convocazioni della Raggi dal magistrato a Roma, può darsi di no, però c'è un tema politico importante. La cosa nasce da un'Anna Tornoni, che era praticamente la responsabile della ragioneria del comune, che è stata cacciata perché si rifiuta di togliere dal bilancio questo debito del comune di Torino. 5 milioni di euro. E perché dice: se lo tolgo dal bilancio sto facendo un falso in bilancio. E viene cacciata e diventa la principale teste contro l'Appendino. L'Appendino è stata sentita dal magistrato, diceva: chiarisco tutto, spiego che questo debito avremmo pagato, però poi una serie di email, di sms la smentiscono. Il tema, secondo me, politico grosso è: chi va al mulino si infarina, cioè qualunque grande amministratore pubblico prima o poi dovrà avere a che fare con debiti pregressi, crediti inesigibili, eccetera, eccetera. Pensa ai casini che ha il Comune di Roma o che hanno tante amministrazioni pubbliche italiane. Ma qui c'è il discorso dei 5 Stelle. I 5 Stelle si sono presentati anni fa sulla scena politica dicendo che anche un avviso di garanzia vuol dire che ti devi dimettere, anche se per caso... Però poi se li hanno massacrati con gli avvisi di garanzia... A un certo punto però scopriamo che anche se si viene citati in giudizio, indagati, si può rimanere al proprio posto. Assolutamente. Ma io quindi, ti faccio questo esempio sulla Raggi. Come si cambia, no? Diceva la famosa canzone. Può avere idee strane sui frigoriferi, complotti ai frigoriferi, però la vicenda sua giudiziaria è incredibile. La interrogano su 4 capi d'accusa, tipo, no, mafioso del narcotraffico, 7 ore di interrogatorio nella notte con i giornalisti fuori. Dopodiché viene prosciolta per i 4 capi di accusa, ma gliene mollano un quinto, perché sostengono che nel primo su cui è stata prosciolta, cioè la nomina irregolare che invece poi si scopre era in continuità con gli altri sindaci del capogabinetto, avrebbe detto una falsità. Ma come puoi dire una cosa falsa su un reato di cui sei prosciolto? Questa è la domanda, no? Poi c'è qualcosa che non funziona nel sistema, e vale sia per i 5 Stelle sia per tutti gli altri. Su questo la parte liberale e liberale di questo paese dice che spesso la magistratura mette tutti e due i piedi nel piatto della politica e delle istituzioni. Questo sappiamo, che abbiamo dei magistrati spesso disinvolti in Italia. Però il tema è e resta politico. Perché Virginia Raggi, quando diventa sindaco di Roma, nomina come assessore alla monnezza, diciamo così, una persona che lavorava con Alemanno? Perché Virginia Raggi esce in pubblico con una dichiarazione del tipo: se va via Marra vado via anch'io? E poi ci sono degli arresti e lei non va via. Cioè, il caso è più che altro politico, si tratta di capire se i 5 Stelle sono un partito come gli altri, allora in presenza di convocazioni da magistrati, avvisi di garanzia, eccetera, eccetera, possono resistere al loro posto, o se invece devono continuare a mantenere il vecchio DNA grillino, che però a me sembra molto sbiadito a questo punto. Ne parleremo più tardi con Oscar, ovviamente, perché è il grande tema del giorno, ma non posso non chiedere a te che impressione hai di questo conflitto istituzionale, viene definito così oggi, per cui il PD e Renzi vogliono, fanno una mozione per mandare via il governatore della Banca d'Italia. Ma sarò molto secchio, la penso come Bersani, cioè il Partito Democratico ha fatto una puttanata, nel senso, oddio, che, nel senso che ha messo fortemente in imbarazzo il governo Gentiloni stesso. Che Renzi ha detto due cose poco credibili: la prima, io non c'entro niente con questa mozione, il che dal momento che lui è il segretario del partito che l'ha fatta è... La seconda cosa che ha detto è il PD non c'entra niente con la crisi delle banche. Pregherei Renzi, magari parlatene più tardi con Giannino, di rivedere il caso Montepaschi. Cioè, in Italia esistono tre finanze: una finanza laica, diciamo Mediobanca, una finanza cattolica, ricordarsi che esiste un signore che si chiama Bazzoli, una finanza, diciamo, di area centrosinistra. Quindi dire che il PD non c'entra niente con le banche. E io ritengo poi che attaccare la Banca d'Italia sul tema della vigilanza sia come prendersela con i carabinieri perché c'è qualcuno che fa le rapine, o con la Guardia di Finanza perché c'è qualcuno che va del fisco. Cioè, che ne so, destituiamo il comando della Guardia di Finanza perché qualcuno evade. Poi sul merito di come, però io ricordo, insomma, lo cito in chiusura, articolo 19, comma 8 della legge 28 del 2005 dice che è su proposta, è su decreto del Presidente della Repubblica che si elegge il governatore. Quindi non è competenza del Parlamento. 6:55, ci fermiamo per il giornale radio e le strade e torniamo dopo. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.